Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non raccontiamo mai le cose che vanno, che funzionano. Questa è una realtà che a me lascia senza parole. Io mi ero preparato perfettamente, avevo il golfino falconero, me l'hanno fatto togliere. Ho anche la mutanda intimissimi, ma ve la risparmio. Credetemi sulla parola, il calzino si può verificare, la mutanda, credetemi sulla parola. Lo crediamo sulla parola, per carità, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che va la mutanda di intimissimi. Renzi oggi era, siccome era poi a Vinitaly a Verona, è passato prima a Calzedonia, che è appunto un'azienda italiana di lì di Verona, con vari altri marchi, tra cui intimissimi, e quindi lui assicura che sotto, diciamo, sotto il vestito c'era la mutanda di intimissimi. Però Renzi oggi ha fatto altre cose, è stato anche alla Camera a parlare delle riforme, c'è stato il suo intervento un po', diciamo, un po' desertico, perché le opposizioni hanno lasciato l'aula, ma fra le varie cose ha detto questo: per la prima volta la classe politica, a proposito di riforma, ha detto, mostra il meglio di se stessa per le riforme, non altrettanto hanno fatto alcune parti della classe dirigente di questo paese, perciò la politica, dice, dà una grandissima lezione di dignità al resto della classe dirigente di questo paese. Siete d'accordo che in questo momento, in questo periodo, la politica, i politici e il Parlamento dà una lezione al resto della classe dirigente? La classe dirigente, insomma, è quella che dà una direzione politica, sociale, economica, culturale a un paese, no? Dice, noi siamo quella parte della classe dirigente che dà una lezione al resto della classe dirigente italiana. Siete d'accordo? Questa lezione di dignità? 349-238-6666, il numero per i messaggi, per i WhatsApp, per la domanda che vi ho posto questa sera, oppure potete scrivere i vostri commenti a questa affermazione di Renzi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo di questo, di come è andata oggi, anche questo pomeriggio, nell'aula della Camera, a proposito di riforme. Faremo ancora un po' il punto su come sta andando questo disegno di legge costituzionale, e poi ci occuperemo, fra le altre cose, anche della bocciatura da parte del Consiglio d'Europa nei confronti dell'Italia a proposito della legge 194. Quella che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi l'aborto, perché sembra che in Italia ci siano più obiettori di coscienza che altro tra i medici, che per molte donne sia difficile quando devono abortire, che lo desiderano, che sono costrette, insomma, hanno difficoltà a trovare un ospedale, un medico che possa erogare questo tipo di servizio. Ma intanto, mentre voi fate le vostre riflessioni, di temi ce ne saranno moltissimi, vi racconto in sintesi la giornata. Riforme, l'intervento di Matteo Renzi alla Camera, giornata storica, mi gioco tutto, dice, le opposizioni escono dall'aula. Trivelle, il presidente della Consulta, Grossi, sottolinea, al referendum si deve votare, e dice, poi ognuno fa come vuole. Immigrazione, l'Austria inizia i lavori al Brennero per fermare i migranti. Lo scandalo Panama Papers, David Cameron si difende alla Camera dei Comuni. Aborto, il Consiglio d'Europa boccia l'Italia, violato il diritto alla salute delle donne e discriminati medici non obiettori. La ministra Lorenzin replica, sono dati superati. Euro 2016, il torneo era nel mirino dei terroristi di Bruxelles, secondo una registrazione volevano colpire prima del 10 giugno per farlo annullare. Calcio, 8 arresti a Palermo dopo la maxi rissa per gli ultras, fra gli ultras. Partiamo quindi dalle riforme, con la ripresa, vi dicevo oggi, della discussione alla Camera sul disegno di legge di riforma costituzionale. C'è stato l'intervento del Presidente del Consiglio Renzi, che è stato però disertato dalle opposizioni. Parla in un'aula semivuota Matteo Renzi perché tutti i gruppi d'opposizione abbandonano l'emiciclo di Montecitorio quando il Premier prende la parola sulle riforme costituzionali, ma lui prosegue imperterrito, rende omaggio a tutto il Parlamento, comprese le opposizioni, le forze politiche che hanno avuto il coraggio di riformare se stesse. Ribatte a chi gli contesta di non essere stato eletto che per la Costituzione il Presidente del Consiglio non è eletto dai cittadini ma gode di un rapporto di fiducia con il Presidente della Repubblica. Ma Renzi pensa anche al dopo, al referendum confermativo d'autunno. Nel momento in cui sulla più importante di questa riforma non vi fosse il consenso popolare tale da far cadere il castello della riforma stessa, è principio di serietà politica trarre le conseguenze. Fuori dal Palazzo i 5 Stelle organizzano un sit-in di protesta, i parlamentari del Movimento contestano il voto sulle riforme quando sul governo pende un voto di sfiducia fissato il 19 aprile a Palazzo Madama. Così Luigi Di Maio. Matteo Renzi non è il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri. Martedì prossimo si voterà al Senato per mandare a casa Matteo Renzi. Fino ad allora ci faccia la cortesia di non mettere mano alla Costituzione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si riferiva Di Maio del Movimento 5 Stelle alla mozione di sfiducia che si voterà nei prossimi giorni. Prima di parlare alla Camera di riforme, comunque Renzi era stato a Verona, alla mostra Vinitaly, dove ha incontrato i produttori di vino, ha fatto il punto sul mercato del vino e dell'agroalimentare per incrementare la leadership dei nostri prodotti nel mondo. Alle piccole e medie imprese il Premier promette un aiuto attraverso la riduzione delle burocrazie, ma in cambio chiede una maggior capacità a digitalizzarsi il più rapidamente possibile per rimanere al passo nella competizione globale. Le prossime sfide che abbiamo di fronte, ha aggiunto Renzi, vedranno questo Paese tornare a fare squadra anche sulle questioni dell'agroalimentare. Il nostro obiettivo per il 2020 è raggiungere i 50 miliardi di export. Ricorda che in occasione della sua ultima visita qui, l'export agroalimentare ammontava a 30 miliardi, ora siamo a 36,9. Il nostro vino, ha detto Renzi, rivolto a Jack Ma, fondatore del colosso cinese di e-commerce Alibaba, è meglio di quello francese, però è mancata una strategia comune come paese. Prodotti Italian Sounding, con il nome che sono italiano. E però avete visto che il dato è molto più basso, l'export è soltanto 36,8 miliardi. Quindi noi abbiamo un margine di miglioramento che è spaziale. Lara Vecchio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona. Spaziale e un intervento, seppur richiesto con una domanda in conferenza stampa, c'è stato da parte del presidente della Consulta sul referendum relativo alle trivellazioni del prossimo 17 aprile. Non entra nel merito del quesito referendario il presidente della Consulta, ma il messaggio che parte dal presidente della Corte Costituzionale è chiaro: domenica si deve votare, così Paolo Grossi. Certamente nel modo come il cittadino crede opportuno di votare, ma credo che si debba partecipare al voto. Ecco, perché partecipare al voto significa essere pienamente cittadini. Il referendum è per lui, è per ognuno di noi. Grossi svicola quindi un altro tema caldo, quello delle intercettazioni. È bene mantenere un assoluto silenzio, altrimenti sarebbe un'interferenza. La macchina della giustizia, poi, nella magistratura in Italia c'è un difetto di organizzazione, dice il presidente della Consulta, troppo pochi giudici e un carico eccessivo di lavoro. Sul referendum, intanto, la posizione di Grossi trova l'appoggio dei sindacati. Votare è diritto da esercitare sempre, dice la CGIL. Andrò ma voterò no, annuncia intanto il ministro dell'Ambiente Galletti. Mattarella si esprime, attacca quindi Grillo, mentre dal comitato del non voto dicono: rivendichiamo il nostro diritto all'astensione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per l'Italia arriva una bocciatura da parte del Consiglio d'Europa sul tema dell'aborto. L'Italia viola il diritto alla salute delle donne, discrimina i medici che non sono obiettori di coscienza, ma la ministra della Salute Lorenzin replica che quelli contestati dal Consiglio d'Europa, che ha accolto un ricorso della CGIL, sono dei dati vecchi. Poi torniamo a parlare di questo argomento, come vi dicevo, anche per capire cosa prevede effettivamente la legge 194 sull'obiezione di coscienza e insomma in quali limiti c'è il dovere di erogare questo tipo di servizio, qual è insomma il perimetro di questa legge. Intanto passiamo al tema dell'immigrazione. Al Brennero, l'Austria, ha iniziato oggi i lavori per la costruzione di una barriera per limitare in caso di necessità l'accesso di migranti provenienti dall'Italia. La struttura avrà una lunghezza di 250 metri, comprenderà l'autostrada come anche le strade statali. Al valico italo-austriaco sono già stati montati i guardrail e smontati i guardrail. In una prima fase di lavori sarà anche modificata la segnaletica stradale. I provvedimenti al Brennero non prevedono un muro oppure filo spinato, ha precisato il presidente austriaco Fischer a Praga, ribadendo il concetto del management di confine, cioè la gestione del confine per avere minore impatto possibile sul transito di persone e merci. E poi c'è il caso Panama Papers. Oggi c'è stato l'intervento dalla Camera dei Comuni del primo ministro britannico Cameron, che si difende dopo lo scandalo. Ho venduto tutte le quote prima di diventare premier perché volevo evitare un conflitto di interessi. Così si difende David Cameron, chiamato a rispondere in Parlamento degli investimenti nel fondo offshore del padre Ian, scomparso nel 2010. Tutto è stato registrato e sottoposto alle tasse annuali, dice il primo ministro britannico. Le accuse contro mio padre sono offensive e false. Poi l'annuncio di una vigorosa azione contro l'evasione, comprese sanzioni penali per le società che aiutano i clienti a evadere il fisco. Per la prima volta le forze dell'ordine vedranno chi possiede holding alle Cayman, alle Isole Vergini, Bermuda e così via, spiega il capo di governo, a cui non è bastato pubblicare la propria dichiarazione dei redditi per placare le polemiche, una mossa peraltro seguita dal cancelliere Osborne. Cameron non capisce quanto la gente sia arrabbiata, accusa il leader dell'opposizione laburista Corbyn. Forse sarebbe stato possibile evitare 6 anni di austerity se i super ricchi avessero pagato le tasse come la gente comune. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vicenda dell'omicidio di Giulio Regeni. Domani il ministro degli esteri Paolo Gentiloni incontrerà l'ambasciatore Maurizio Massari, richiamato, vi ricordate, abbiamo parlato venerdì, richiamato dall'Egitto in segno di protesta, e si esaminano pure altre misure. In settimana invece la Procura di Roma invierà di nuovo la richiesta di rogatoria sui tabulati telefonici, cioè la richiesta di ricevere in Italia per gli inquirenti italiani i tabulati telefonici di Giulio Regeni. Poi c'è questa iniziativa unitaria bipartisan domani al Parlamento europeo di Strasburgo, ci sono PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, per chiedere alle autorità egiziane piena luce sul caso Regeni. Parliamo di terrorismo. I terroristi all'aeroporto di Zaventem e della metro di Bruxelles volevano far annullare Euro 2016, il torneo di calcio in programma in Francia dal 10 giugno, organizzando attacchi terroristici prima di quella data. Questo è quanto emerge da una registrazione ottenuta da BFM TV, un audio di oltre 16 minuti preso dal computer di uno dei kamikaze di Zaventem. Torniamo sulle questioni italiane. Primo giorno di borsa per RCS, dopo l'offerta lanciata da Cairo, il titolo ha chiuso in rialzo di oltre il 28%, ma i soci forti non sembrano interessati. Che qualcuno storcesse il naso era prevedibile. Tra via Rizzoli e via Solferino l'offerta di Cairo non ha sortito l'effetto desiderato, tutt'altro. Secondo indiscrezioni, gli altri soci, Mediobanca, Della Valle, Unipolsai e Pirelli, si sarebbero confrontati e si sarebbero ritrovati sulla comune intenzione di non aderire all'offerta. Un'offerta che Urbano Cairo continua a definire aperta, non ostile, tenendo dentro i vecchi soci, che però non sembrano interessati, almeno non a queste condizioni. Un'offerta pubblica di scambio, 0,12 azioni di Cairo Communication per ciascuna azione ordinaria RCS. A differenza degli azionisti, il mercato ha reagito con entusiasmo, spingendo il prezzo delle azioni RCS oltre l'offerta, a 0,6 euro. Mediobanca starebbe studiando eventuali contromosse, forse un'OPA, ma bisognerebbe trovare il soggetto disposto a farsi avanti, o un aumento di capitale, forse solo una mossa per spingere Cairo a rinforzare il piatto. Angelo Di Gregorio, ordinario di economia e gestione delle imprese alla Bicocca, direttore del CRI. Una cosa è sicura, che se non interviene un operatore esterno, una qualche operazione di finanza straordinaria su RCS ci dovrà essere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriviamo così alla cronaca a proposito dell'ennesimo femminicidio, quello della ragazza di 27 anni il cui cadavere era stato ritrovato ieri mattina al posto di guida della Renault Modus nera in un posteggio del cimitero di Cusano Milanino alle porte del capoluogo lombardo. È stata rinviata oggi l'udienza di convalida del fermo di Davide Berseo, accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata, il nome Liliana Mimu. L'uomo, un autotrasportatore di 26 anni con piccoli precedenti di polizia, rimane così in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Una notizia dall'estero: la chiesa protestante norvegese dice sì ai matrimoni religiosi gay. Dal prossimo anno verrà creata un'apposita liturgia. Oggi il matrimonio religioso gay, quindi in chiesa, è consentito in Svezia, Danimarca e in alcune congregazioni nel mondo anglosassone. E siamo alla chiusura con il calcio e un posticipo di Serie A Roma-Bologna. Dario Ricci, come è iniziata questa partita? Beh, posticipo non banale direi, Roberta, soprattutto perché la Roma cerca 3 punti per rimanere in scia al Napoli e giocarsi poi il secondo posto. Il Bologna vuol fare bella figura all'Olimpico e direi che finora la formazione di Donadoni ci sta riuscendo pienamente, perché siamo al 30° del primo tempo e proprio il Bologna in vantaggio per 1-0. Pochi minuti fa il gol con un colpo di testa di Rossettini, dopo che la Roma in precedenza era andata vicina al vantaggio con Salah, che aveva colpito un palo clamoroso. Comunque adesso 30esimo ancora di gioco all'Olimpico, Bologna in vantaggio sulla Roma per 1-0 col gol di Rossettini. Ci sentiamo allora dopo, Dario Ricci, per vedere un po' come procede, probabilmente imprevisto per ora il risultato, ma è parziale, Roma 0 Bologna 1. Prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, un po' un'occhiata ai vostri messaggi che arrivano sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che sempre lì è per voi giorno e notte, oppure i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Chiedo a un ascoltatore, i messaggi di oggi sono sull'obiezione di coscienza dei medici, ma se anche volete questo sarà uno dei temi di questa sera, ma l'argomento che vi sottoponevo è questa dichiarazione di Renzi oggi alla Camera, che ha detto per la prima volta la classe politica mostra il meglio di se stessa, sottolineando con le riforme costituzionali, riforma se stessa e non altrettanto hanno fatto altre parti della classe dirigente di questo paese, perciò la politica dà una grandissima lezione di dignità al resto della classe dirigente di questo paese. Vi chiedo, siete d'accordo con questa dichiarazione? Per esempio dice un ascoltatore, sì, proprio laconico, sì, ecco, molto sintetico. Piero dice, essere d'accordo con Renzi è come essere d'accordo con l'invasione delle cavallette. Poi un altro dice, sono obbligati a vincere per sempre, vabbè, può essere un buon obbligo. Bruno, la classe politica dà solo scandalo, dice. E poi anche sulla pagina Facebook, per esempio Antonio, al di là del sempre troppo enfatico storytelling renziano, della narrazione renziana, quindi dobbiamo riconoscere che questa riforma, se confermata, questa riforma costituzionale, renderà più efficace e moderna la nostra Repubblica parlamentare, scrostandola da oggettivi anacronismi come il bicameralismo paritario. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo guardando ancora prima di entrare poi nel cuore dei vari argomenti con gli ospiti, lo sapete poi, no? Dopo il primo riassunto della giornata cominciamo a trattare i vari argomenti. Volevo leggere ancora i vostri messaggi, vi ho chiesto a proposito di questa dichiarazione di Renzi che dice che per la prima volta con le riforme la classe politica dà il meglio di se stessa, perché riforma se stessa, cosa che non ha fatto il resto della classe dirigente, e quindi in questo caso dice la politica dà una grandissima lezione di dignità al resto della classe dirigente di questo paese. Vi chiedo, siete d'accordo? Scrive questo ascoltatore, Delirio 5B, così si firma, dice per ora sì. Poi invece Francesco dice Renzi, Lupi, Boschi, Guidi, Marino e parlano di dignità. Altri messaggi, sono Nicola da Milano, dice senti Roberta, per me Renzi ha perso la Trebisonda, ma quale esempio della politica che lui e i suoi accoliti vadano a lavorare seriamente, massa di mantenuti a tradimento, ma cosa ci tocca sentire? Poi Clotilde, caspita che tempismo, che grande lezione di orgoglio, fa giusto il paio con le mutande, visto che all'inizio Renzi parlava assicurava di avere delle mutande intimissimi sotto, sentirlo poi parlare di serietà è francamente ridicolo, dice Clotilde. Poi altri messaggi, Giuseppe, ma di quali riforme parla Renzi? La smetta e faccia la persona seria una volta e per sempre, riforme i privilegi di cui godono i suoi colleghi onorevoli e senatori. Ne parleremo tra pochissimo di queste riforme, intanto se non avete acceso puntualmente alle 21 vi ricordo le notizie più importanti di oggi. Riforme alla Camera, Renzi interviene, conta di vincere, ora mi gioco tutto, dice, se sarò senza consenso, poi per il referendum che si farà a ottobre sulle riforme traggo le conseguenze. Intanto le opposizioni sono uscite per protesta e chiedono che il voto slitti. Il presidente della Consulta Grossi ha detto al referendum si deve votare, poi ognuno decide come votare. E poi ancora l'Austria che dà il via oggi ai lavori al Brennero per fermare i migranti, un blocco di 250 metri per l'autostrada e arrivano le proteste dall'Italia. C'è poi questo richiamo di Strasburgo al nostro paese per come viene applicato, come viene male applicato l'aborto, è troppo difficile per le donne, vengono violati i loro diritti, mentre la ministra Lorenzin dice sono dati vecchi, oggi è diverso, parleremo anche di questo. Cameron e i Panama Papers, qui ci spostiamo in Gran Bretagna e lo scandalo Panama Papers di questi conti offshore nei paradisi fiscali, lui dice Cameron sono accuse false nei miei confronti di mio padre, offensive, e poi dice ci sarà un'azione vigorosa contro l'evasione. RCS vola il titolo in borsa dopo l'OPA di Cairo, non è un'offerta ostile, precisa l'editore. Dicevamo dunque delle riforme, oggi è ripresa, vi dicevo, la discussione alla Camera in quella che è la sesta e ultima lettura del disegno di legge costituzionale. Nel pomeriggio, come vi dicevo, è intervenuto alla Camera Renzi, si è spostato da Vinitaly a Verona a Roma e ha parlato della riforma costituzionale. Bisogna dire che ha parlato davanti a una Camera dei Deputati non così gremita, visto che le opposizioni, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, SEL e Lega, sono uscite dall'aula mettendo in atto quello che viene definito dall'antica Roma l'Aventino, no? Il fatto di ritirarsi, prende spunto questo concetto dell'antica Roma e poi da coloro che si rifiutarono che si opposero al fascismo nel 1924. Opposizioni che hanno spiegato il perché di questa uscita dicendo che il Presidente del Consiglio non ha ascoltato gli interventi dell'opposizione contrarie a queste riforme. Sentiamo a questo come ha reagito Renzi. La superficialità, l'improvvisazione di chi si trova a proprio agio fuori delle aule del Parlamento, molto più che dentro nel dibattito costituzionale, è un elemento sul quale i cittadini sapranno riflettere, anche perché in tanti dicono andiamo fuori del Parlamento per chiedere che prima o poi si vada a votare. Quando andremo a votare, in tanti di loro resteranno fuori dal Parlamento e non credo che sarà un problema per la stragrande maggioranza degli elettori medesimi. Così Renzi ha reagito all'atteggiamento delle opposizioni che sono uscite, vi dicevo, dall'aula. Al completo invece il banco del governo e anche l'emiciclo dei banchi della maggioranza. Ma sentiamo le opposizioni, partiamo da Brunetta di Forza Italia. Questa è una brutta pagina per la nostra democrazia. Il governo presente in massa, posti in piedi, direi, a significare l'esatto contrario di quello che chiedeva Calamandrei, posti in piedi, a calpestare la nostra democrazia parlamentare. Non è una posizione di forza questa, signor Presidente, aver precettato ministri e sottosegretari. E sempre dalle opposizioni, Di Maio del Movimento 5 Stelle. È il presidente di un consiglio dei ministri che è coinvolto in uno scandalo enorme che si chiama Trivellopoli. Martedì prossimo si voterà al Senato per mandare a casa Matteo Renzi. Fino ad allora ci faccia la cortesia di non mettere mano alla Costituzione, perché non è un presidente del consiglio legittimato, è sotto mozione di sfiducia. Non lo riconosciamo, non vogliamo ascoltare le sue chiacchiere da bar in Parlamento, siamo qui fuori per parlare con le persone e spiegare alle persone che cosa sta accadendo. E che cosa sta accadendo lo chiedo a Alessandro De Angelis, commentatore politico dell'Huffington Post. Alessandro. Ciao, buonasera. Ciao Alessandro. Ci sintetizzi proprio in due parole questo disegno di legge costituzionale, le riforme in gioco e poi quello che appunto sta accadendo. Ma sai, oggi, a parte che era assente anche un bel pezzo di PD, colpo d'occhio era davvero impressionante, c'erano più o meno 150 parlamentari presenti. Oggi è iniziata la campagna sul referendum. Quale referendum? Non quello delle trivelle, quello di ottobre, che è la madre di tutte le battaglie. Lo ha detto anche Renzi, se il governo perde va a casa, lo fanno i 5 Stelle, che oggi hanno iniziato la loro campagna non parlando della riforma, non dicendo, per esempio, quello che dicono Rodotà, Zagrebeschi, i costituzionalisti a loro vicini, che magari non funziona, che non va bene il Senato, che non va bene questo o quell'altro aspetto, ma dicendo il governo è un governo travolto dagli scandali, è come se Craxi volesse cambiare avesse voluto cambiare la Costituzione nel pieno di Tangentopoli. Una mossa politica chiaramente che alza il tiro e che li pone come una vera alternativa a Renzi. Le altre opposizioni di fatto l'hanno seguita, ma sono abbastanza inesistenti. Ricordiamo che due elementi principali di questa riforma costituzionale sarebbe quella di eliminare il bicameralismo perfetto, quindi il Senato diventerebbe una Camera non elettiva composta da 100 componenti, 70 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, e poi quella del titolo quinto che riforma le competenze tra Stato e Regioni, no? Sì, ma io credo che ahimè, di questo si parlerà molto poco, diciamo, nei prossimi mesi, perché per Renzi la riforma costituzionale, parliamoci chiaro, l'unica vera riforma su cui il suo decisionismo è stato scintillante. Renzi non ha fatto la riforma della giustizia, i dati Istat sul lavoro dicono che insomma tutta queste magnifiche sorti progressive non ci sono, quindi questo è davvero il fiore all'occhiello del suo governo, quello dove può dire ho vinto, ho cambiato. No? E a loro volta i 5 Stelle si stanno accreditando come l'unica vera alternativa. Insomma, basta che guardiamo i telegiornali tutte le sere, c'è Renzi e i 5 Stelle, no? Non c'è altro. e percepiscono una cosa molto semplice del referendum, che sarà uno spartiacque, perché anche se Renzi vince, sai, poi questo Parlamento che ci resta a fare, insomma, non è, lo sai meglio di me, nel palazzo si parla dell'eventualità del voto del 2017, no? Poi con l'Italia, come abbiamo visto i sondaggi di ieri su Repubblica, se la giocano. Senti Alessandro De Angelis, se sentiamo un altro passaggio di Renzi, mi dirai poi se secondo te è giusto che lui alla fine di questo referendum di ottobre sulla riforma costituzionale ne abbia fatto un referendum su se stesso, perché come dicevi tu ha detto più volte se perdo vado a casa, il governo va a casa. Sentiamo anche questo passaggio. L'accettazione dell'incarico di Presidente del Consiglio è stata subordinata all'impegno preso con il Presidente della Repubblica e con i deputati e i senatori a realizzare una serie di riforme che possono piacere o meno. Nel momento in cui sulla più importante di questa riforma non vi fosse il consenso popolare tale da far cadere il castello della riforma stessa, è principio di serietà politica trarre le conseguenze. Quindi lo ha ribadito, no? In questo modo. Ma mi pare una cosa anche molto logica. Una volta al referendum sulla scala mobile, a domanda che fece Bettino Craxi, ma se perdi il referendum e la Presidente del Consiglio ti dimetti, lui rispose alla Craxi in maniera molto trasciante un minuto dopo. Insomma, questo governo è nato con le riforme, sulle riforme, e può andare a casa. Però posso fare un'osservazione maliziosa. Renzi, a mio giudizio, ha messo in campo tutto il suo peso, in una precedente dichiarazione addirittura aveva detto lascio la politica, vedo che questo già non lo dice più, si limita a dire al limite salta il governo, era un po' troppo impegnativo. Però oggi mi ha colpito molto, quando sono arrivato alla Camera, Renzi stava in buvetto, un fatto inusuale, stava a prendere un tè caldo circondato da tutti questi giornalisti, faceva battute come fa lui, perché poi è anche simpatico, e là si è lasciato scappare una frase e ha detto non mi importa quanta gente andrà a partecipare, e l'importante è vincere, anche se al referendum che senza quorum ci va il 30%. Ora, io credo che lui abbia messo in campo tutto il suo peso, anche perché ha bisogno di mobilitare, no? Di partecipare, perché è vero che l'importante è vincere, ma lui sa per primo che non puoi cambiare la Costituzione con una minoranza nel paese, no? Già. E quindi questo fa parte, poi io non lo so se sono i consigli che gli dà il guru americano, questo Jim Messina che ha chiamato a dargli consigli, però lui c'ha il problema della partecipazione, cioè è vero che senza quorum, ma la Costituzione si cambia con il grosso del popolo. Tu immagini che riforma sarebbe col 30%, insomma, no? Direi un po' zoppa. Senti, ti chiedo per ultima cosa di commentare questo messaggio di un ascoltatore, dei vari che stanno arrivando. Dice, non so se i politici siano meglio della classe dirigente, Renzi è un politico che sta provando a cambiare qualcosa, mi auguro vivamente che ci riesca. Ma sì, ma questo è il dibattito che ti indica il bipolarismo che dicevo tra Renzi e 5 Stelle. Renzi cambia qualcosa e magari non si dice quale qualcosa è, e quegli altri ti dicono Renzi se ne deve andare a casa perché c'è Tridellopoli, no? Questo è molto indicativo, no? Dello spirito dei tempi, ecco, si sarebbe detto una volta. Vedremo che tempi arriveranno allora prossimamente. Grazie Alessandro De Angelis dell'Huffington Post. Ciao Alessandro. Grazie a voi. Buona Ciao. Serata. Bene, continuo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Tra poco cominceremo ad affrontare altri argomenti. Alessandro dice, aveva annunciato una grande riforma della giustizia, poi dimenticando tutto il resto ha detto che almeno avrebbe riformato la legge sulle intercettazioni. Ora ci ha ripensato anche su quella e lascerà decidere ai magistrati cosa far pubblicare e cosa no. È la riforma più urgente da fare, ma la più impopolare. Ci tocca di nuovo aspettare il prossimo Premier, scrive Alessandro. Continuate, adesso ci prendiamo proprio una piccola pausa di ricreazione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano, sempre con voi. Arrivano i messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso il 349-238-6666, che è il numero sia per i messaggi che per i WhatsApp. La domanda che vi ponevo questa sera, ne abbiamo appena parlato, è Renzi oggi alla Camera, parlando di riforme, ha anche detto: per la prima volta la classe politica mostra il meglio di se stessa, perché riforma se stessa e non altrettanto hanno saputo fare le altre classi dirigenti di questo paese. Perciò la politica dà una grandissima lezione di dignità. Siete d'accordo con questa affermazione di Renzi? Per esempio Enrico dice: è chiaro, non lo si può elogiare in toto questa classe politica, ma certo, al di là delle solite frasi da bar che vedo in molti commenti, una riforma della Costituzione non veniva portata a termine da decenni, e se passa al referendum cambierà il sistema italiano. Un merito indubbio di Napolitano e della maggioranza che appoggia Renzi. Mentre Andrea scrive: effettivamente la classe politica italiana ha saputo costruirsi e assicurarsi successo, margini di guadagno, impunità, benefici, salvacondotti molto superiori a quelli del resto della classe dirigente e imprenditoriale italiana, oltre che della stessa classe politica straniera. Diversi pareri, insomma. E tra pochissimo passiamo a un altro argomento, alla bocciatura da parte del Consiglio europeo nei confronti dell'Italia sull'applicazione dell'aborto, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Riforma, l'intervento di Matteo Renzi alla Camera, giornata storica, dice: mi gioco tutto, le opposizioni escono dall'aula. Trivelle, il presidente della Consulta, Grossi sottolinea: al referendum si deve votare, poi ognuno decide come. Immigrazione, l'Austria inizia i lavori al Brennero per fermare i migranti. Lo scandalo Panama Papers, David Cameron, primo ministro britannico, si difende alla Camera dei Comuni. Aborto, il Consiglio d'Europa boccia l'Italia, ne parleremo tra pochissimo. Euro 2016, il torneo era nel mirino dei terroristi di Bruxelles. Secondo una registrazione volevano colpire prima del 10 giugno per farlo annullare. Parliamo quindi di questa bocciatura dell'Italia da parte del Consiglio d'Europa. Su cosa? Sull'applicazione nel nostro paese, o meglio nei nostri ospedali, della legge 194 sull'aborto. In pratica, dopo quasi 40 anni dalla sua entrata in vigore, la legge 194, che regola in Italia appunto l'interruzione volontaria di gravidanza, non riesce a garantire a tutte le donne che lo desiderano, vi sono costrette, di poter abortire in una struttura pubblica senza dover viaggiare per l'Italia o addirittura andare all'estero. A puntare il dito su questa cattiva applicazione nel nostro paese della legge 194 e sulla conseguente violazione del diritto alla salute delle donne, ma anche sulla penalizzazione e la discriminazione del personale medico che non ha optato per l'obiezione di coscienza, è, come vi dicevo, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa, con una decisione sul reclamo presentato dalla CGIL, quindi accolto un ricorso della CGIL, una decisione però che dice la ministra della Salute Lorenzin l'ha lasciata stupita, perché dice: approfondirò con i miei uffici, ma sono stupita perché dalle prime cose che ho letto mi sembra si rifacciano a dati vecchi che risalgono al 2013, e assicura non c'è alcuna violazione del diritto alla salute. Questa bocciatura però invece è stata accolta con favore da parte della CGIL, in particolare della segretaria generale Susanna Camusso, che ha detto: è una vittoria per le donne e per i medici, ma anche per l'Italia. Ne parliamo con l'avvocata Filomena Gallo, docente di legislazione bioetica della medicina della riproduzione all'Università di Teramo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libera ricerca scientifica, che ha contribuito tra l'altro al ricorso con le sue osservazioni, vero avvocata Gallo? Buonasera, sì, buonasera. Abbiamo presentato delle osservazioni per l'Associazione Luca Coscioni all'interno di questo procedimento che è stato incardinato dalla CGIL. In realtà già nel 2014 c'era stata un'altra decisione, perché un'associazione internazionale che si occupa dei diritti umani e del diritto alla salute aveva presentato anch'essa un ricorso che aveva ad oggetto la legge 194, e già il Consiglio d'Europa aveva condannato l'Italia dicendo che il diritto alla salute delle donne non è garantito per mancata applicazione di questa legge nel nostro paese. Avvocata, la interrompo brevemente, mi perdoni, perché le voglio far sentire Silvana Agatone, presidente di LAIGA, che è la Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione del 194, che era oggi ospite di Effetto Giorno da Simone Spezia. Sentiamola. Per quelli che sono i non obiettori rimasti, la loro vita in alcuni ospedali, in alcune regioni, non in tutte per fortuna, ma è molto difficile. Recentemente appunto mi hanno telefonato dei colleghi dicendo che le ferriste si erano rifiutate di lavare i ferri e metterli a sterilizzare dopo aver fatto l'interruzione di gravidanza, quindi i medici, che non era compito loro, si sono dovuti mettere a lavare i ferri e fare il lavoro che non gli competeva per poter proseguire a fare gli interventi. E poi ci sono due tipi di aborto, diciamo un aborto volontario per i primi 90 giorni, dove l'ospedale, dove non ci sono anche non obiettori, può supplire prendendo a gettone persone ginecologi esterni non obiettore, ma questo è sempre un carico per le casse dello Stato, no? Invece per un aborto dopo i 90 giorni, lì dove la donna scopre che il feto che ha in grembo ha delle malformazioni e decide di abortire, la cosa si fa drammatica perché occorrono proprio ospedali dove all'interno ci sia il medico non obiettore strutturato, perché si deve sottoporre a un miniparto. I ginecologi non obiettori strutturati negli ospedali sono pochissimi, stanno per andare in pensione, questo è un grosso problema. E alcuni colleghi che hanno fatto gli aborti per malformazioni sono tuttora stati denunciati e sono sottoposti a un processo penale. Quindi, avvocata Filomena Gallo, due aspetti, come dice il Consiglio d'Europa, da una parte la violazione dei diritti alla salute delle donne e dall'altra la discriminazione dei medici che non sono obiettori di coscienza. Sicuramente, che tra l'altro vanno a violare la legge 194, perché la situazione che descriveva la dottoressa Gatone, che tra l'altro con la sua associazione ha partecipato anche ai procedimenti, è una violazione che è proprio dell'articolo 9 della legge 194, che prevede l'obiezione di coscienza, ma chiarisce anche che il medico non si può esimere dall'assistenza antecedente conseguente all'intervento, quindi di interruzione di gravidanza. Quindi tutto ciò costituisce un reato penale in Italia. Anche l'interruzione di un servizio, le strutture autorizzate a derogare l'interruzione volontaria di gravidanza non possono interrompere la fornitura di questo servizio, perché altrimenti è un'interruzione di servizio sanitario per i cittadini. Se le regioni andassero a vigilare sull'operato delle aziende sanitarie e quindi degli ospedali, tutto ciò non avverrebbe. In realtà manca la volontà politica. Le donne devono risolvere un problema, cioè trovare una struttura che gli fa interrompere una gravidanza a quelle settimane, non possono andare oltre, e quindi più delle volte diventa un peregrinaggio nei vari ospedali, il tempo passa e non denunciano queste situazioni. Siamo dovuti ricorrere, grazie a tante associazioni, al Consiglio d'Europa per avere delle prime condanne nei confronti dell'Italia. Manca la volontà politica, speriamo che oggi ritorni a seguito di queste decisioni. Avvocata Gallo, perché ci sono tanti obiettori di coscienza e anche con delle particolari concentrazioni? Mi viene in mente, per esempio, si parlava di Messina, di parte della Sicilia, ma anche in Lombardia. Ma io questo non lo so. E più delle volte ci sono logiche politiche legate anche a momenti di carriera all'interno dell'ospedale. E spesso viene portata questa come motivazione. Io non penso che un medico che oggi decide di fare il ginecologo all'improvviso scopre che esiste l'aborto. L'obiezione di coscienza aveva senso di esistere nel momento in cui c'erano dei medici in servizio e si trovavano l'entrata in vigore di una legge del genere. Oggi chi fa il ginecologo e sta in una struttura dove c'è l'interruzione volontaria di gravidanza sa che potrebbe dover assistere una donna in quel momento. Avvocata Gallo, quindi, però la legge esiste, la 194, lei ci diceva un po' quali sono le regole, dice se le regioni controllassero di più nelle ASL non ci sarebbero questi problemi, ma a questo punto questo richiamo del Consiglio d'Europa resta così? Richiamo del Consiglio d'Europa non può restare così, perché l'Italia ha sottoscritto trattati e convenzioni internazionali e nel momento in cui interviene il Consiglio d'Europa si aspetta delle risposte, viene dato anche un termine, quindi di sicuro delle soluzioni dovranno essere trovate. Queste soluzioni non è che il governo e il Parlamento non le conoscono, ci vorrebbe un albo dei medici obiettori, dovrebbe essere disciplinata l'obiezione di coscienza, chi è obiettore dovrebbe fare un servizio alternativo. Il diritto di ricorso all'interruzione di gravidanza non deve essere limitato all'obiettore di coscienza. Sono due diritti che non devono entrare in conflitto tra di loro. La 194 è una legge fatta bene, ha contenuto costituzionalmente vincolato, non può essere modificato. ci vuole la volontà politica affinché sia correttamente applicata nel nostro paese. Ci aspettiamo quindi che queste cose diventino, insomma, siano concretizzati questi richiami del Consiglio d'Europa, che ci sia un equilibrio tra obiettori di coscienza ma anche tra non obiettori, perché altrimenti davvero si diceva addirittura di donne costrette ad andare all'estero. Grazie avvocata Filomena Gallo, buon lavoro. O abortire in modo illegale, appunto, dobbiamo dire anche questo. C'è l'aumento infatti degli aborti clandestini, vedevo, no, una diminuzione di quelli, e diciamo così, regolari. La 194 aveva fatto scomparire tutto ciò. Ricordiamoci che una volta le donne morivano durante un aborto. Oggi non accade più, ma potremmo ritornare alla situazione che c'era prima della 194. Già. Grazie avvocata Gallo, buon lavoro. Grazie a voi. Buonasera. Di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e adesso tra poco ci sarà lo spazio europeo. Ancora i vostri messaggi, per esempio alla domanda che avevo sottoposto questa sera proprio della dichiarazione di Renzi oggi alla Camera, che aveva detto finalmente la classe politica mostra il meglio di se stessa perché riforma se stessa con la riforma costituzionale, quindi anche per esempio con l'abolizione soprattutto del Senato, dice dà una grande lezione di dignità alla politica e al resto della classe dirigente. Siete d'accordo? Elena scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sotto il vestito niente. Mi permetto di replicare a Elena che Renzi ha assicurato che aveva la mutanda di Intimissimi, oggi l'avete sentito anche qui a Effetto Notte. Poi Maurizio dice chiamiamola riforma, non aggiungiamo altro, la sudditanza colpisce ancora. Poi Armando, assolutamente d'accordo con quello che ha detto Renzi, anche se molti parlamentari hanno votato le riforme per timore di finire ancora prima la loro avventura politica. Vi ricordo quali sono le notizie principali, appunto si è parlato di riforme, anzi ripresa la discussione oggi alla Camera, Renzi ha fatto il suo intervento nel pomeriggio, le opposizioni sono uscite per protesta, lui conta di vincere, dice ora mi gioco tutto e se non vincerò col referendum di ottobre trarrò le conseguenze. E poi il presidente della Consulta Grossi, che ha detto a proposito del referendum sulle trivelle del 17 aprile, si deve votare, poi ognuno deciderà come. L'Austria che avvia i lavori al Brennero per fermare i migranti, un blocco di 250 metri per l'autostrada, arrivano le proteste dall'Italia. E poi questo richiamo invece nei confronti dell'Italia da parte di Strasburgo, ne abbiamo appena parlato, sulla mala applicazione in Italia della legge 194 che è troppo difficile, viola i diritti delle donne e discrimina i medici non obiettori. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Nome? Giovanni Lavia. Età? 52 anni. Nato a? Nato a Catania. Eletto in? Collegio Isole. Con quanti voti? 56.498. Partito politico? Nuovo Centrodestra UDC, cioè Area Popolare. Gruppo politico? Partito Popolare Europeo. Segni particolari? Tacanovista. Quante lingue parla? 3. Competenze europee in 10 parole? Agricoltura, ambiente, sostenibilità, tutela dei consumatori, competitività. Benvenuto nella Youzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'Europa torna a contare morti con gli attacchi terroristici di Bruxelles. Ad oggi c'è una risposta concreta? Una parte della risposta c'è, ed è Europol, ma abbiamo bisogno di farla funzionare meglio. Ci vogliono maggiori scambi di informazioni e poi dobbiamo essere rapidi a approvare ciò che la sinistra sino adesso non ha voluto, cioè il PNR, il registro per scambi e per il registro completo delle informazioni sui passeggeri aerei, così potremo avere più informazioni necessarie a contrastare il terrorismo. Etichettatura a semaforo, cos'è e cosa vuol dire per il Made in Italy agroalimentare? La Gran Bretagna ha deciso di apporre sugli alimenti un'etichettatura e un'etichetta con un semaforino, rosso, giallo e verde. Rosso quando c'è un eccesso di sali, di zuccheri, di grassi, giallo quando il contenuto è medio-alto, verde quando invece ce ne sono pochi. È un modello sbagliato perché non dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'alimento se poi una dieta fa bene o fa male. Tutti i prodotti della dieta mediterranea sarebbero, o buona parte di questi, sarebbero con etichetta con il bollino rosso. In realtà la dieta mediterranea è patrimonio dell'UNESCO e è una grande modello di dieta funzionale e fisiologicamente ottimale. Non dipende quindi dalla caratteristica dell'alimento, ma da come si combinano gli alimenti della dieta, se una dieta è funzionale e fa bene alla salute o meno.